Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. Semplicemente ho detto basta, e fate lì quelle condizioni, senza diritti non si vive, di sopravvivere ogni giorno, di vedere quello che sono stato uccisa, che era sullo stesso strada con me, è arrivato il giorno che ho detto basta, però questo mi ha costato quasi anch'io uccisa dalle mafie nigeriane, che dire e basta per loro è brutto esempio per loro affare, per altre ragazze che sono in condizioni di schiavitù sessuale. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole di Zoke, una delle poche ragazze nigeriane che è riuscita a ribellarsi alla mafia, che ha deciso di non rimanere in silenzio, ma di denunciare quella terribile macchina di schiavitù di cui oggi vorremmo un po' parlare insieme. Ciao, io sono Stefano. Ciao, io sono Valentina. E Eleonora. Eleonora con il suo solito maglione rosso, come diceva prima di andare in onda. Sono un po' poco fantasiosa. E le cambiati ogni tanto. Già non mi lavo. Dai Vale, parlaci di Zoke. Zoke nasce a Benin City, una città dove la miseria è grande e ci sono poche prospettive di vita per i giovani. Ma nei quartieri eleganti della città vivono questi uomini bianchi venuti dalla ricca Europa, che offrono a Zoke, come alle tante giovani e belle ragazze della città, la possibilità di partire, di andare via da quell'orrendo posto di miseria senza prospettive e di arrivare in Europa. Precisamente promettono a Zoke di arrivare a Londra e di trovarsi un bel lavoro e, come commessa in un supermercato, guadagnare per poter mandare i propri soldi alla propria famiglia a casa. Beh, dei benefattori quindi. Sì, dei benefattori infatti, ma in realtà non è assolutamente così, perché una volta arrivata vede immediatamente il suo sogno spezzarsi. Anziché a Londra è a Torino in Italia, ed è costretta, anziché vendere i prodotti in un supermercato, è costretta a vendere il proprio corpo in strada. Ma Zoke non ci sta e non vuole, non ha nessuna intenzione di passare il resto della sua vita così, e insieme al suo compagno, che è un suo ex cliente Claudio, decide di ribellarsi e uscire definitivamente dalla tratta. Quindi un atto di coraggio, decisamente. E questa giovane ragazza non si ferma qui, scrive un libro di denuncia, Le ragazze di Benin City, e avvia un progetto che poi diviene associazione al fine di dare aiuto concreto alle ragazze ancora vittime della tratta. E chi gli chiede se ha paura di dire queste cose ad alta voce risponde così: so rischio, se ho paura, certo che ho paura, però non voglio neanche stare zitta. Chi fa questo male alle persone che deve avere paura? Quindi se le ragazze che hanno vissuto questa esperienza cominciano a alzarsi le voci, farci sentire la loro voce e fa paura all'organizzazione, credo che anche è un momento che qualcosa bisogna cambiare. Ma in questa puntata abbiamo anche delle inviate che sono a parlare con l'Albero di Cirene, un'associazione che si presenta da sola. Ma prima vi lasciamo con la canzone Ebano dei Modena City Ramblers. Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'ebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. A 16 anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre, non mi sono voltato. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, cerco sbarbare in hotel, formi un me. Ebano, spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti a Palermo nel 94. Eravamo più di 100 giù al porto, raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina, lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi in una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano, poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza, da un'amica mi sono fermata in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno la perla nera rende felici con poco. Ebano, cerco sbarbare d'hotel, formi un e. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla. Ciao a tutti, siamo qui alla sede dell'associazione L'Albero di Cirene. Io sono Flavia. Io sono Sara. E siamo in compagnia di Riccardo, uno dei coordinatori dell'associazione. Riccardo, ci vuoi presentare brevemente il progetto, insomma, che portate avanti con l'associazione Albero di Cirene, appunto di recupero di ragazze di strada? Salve a tutti, io sì, sono un volontario del progetto Non Sei Sola, che è uno dei 7 progetti dell'associazione Albero di Cirene, che è questa associazione di Bologna che ha sede in via Massarenti. Allora, il progetto Non Sei Sola è nato ufficialmente 10 anni fa circa. In realtà, in maniera non ufficiale, l'attività viene svolta dal 1995, cioè da quando il presidente dell'associazione, Don Mario Zacchini, tornato da un suo viaggio di 10 anni in Tanzania come missionario, ha deciso di andare ad incontrare le ragazze che si prostituiscono sulle strade della nostra città di Bologna. L'attività che svolgiamo come progetto Non Sei Sola è un'attività principalmente di incontro con le ragazze che si prostituiscono in strada. Quindi noi facciamo indicativamente 3-4 uscite a settimana in varie zone di Bologna, dove andiamo ad incontrare le ragazze che sono costrette a prostituirsi sulle nostre strade. Oltre attività di incontro, come progetto ci siamo dati anche alcuni altri obiettivi. Allora, uno è quello di sensibilizzare, quindi facciamo attività di sensibilizzazione in particolare nelle scuole, comunque in gruppi di giovani, per informare sul tema della tratta e dello sfruttamento, perché è un tema che è abbastanza ignoto ai più. Inoltre facciamo attività anche di colloqui con le ragazze che ci chiedono un aiuto o un sostegno per o uscire dalla strada, quindi cerchiamo di indirizzarle poi eventualmente su le vie da percorrere, ma anche molto spesso aiuto materiale per accompagnamenti sanitari, indicazioni legali su come muoversi. Come progetto abbiamo anche una casa di seconda accoglienza, Casa Magdala, in cui sono accolte ragazze che hanno deciso di uscire dal giro della prostituzione e quindi iniziano un percorso, e noi siamo una casa di seconda accoglienza, quindi una seconda fase di aiuto nel reinserimento sociale, ricerca lavoro, corsi di italiano e quant'altro. E poi volevamo chiederti, più o meno voi siete riusciti a fare una stima del numero insomma di ragazze che sono presenti qui a Bologna, che devono essere presenti appunto sulla strada, e la loro nazionalità? Noi usciamo principalmente in orario serale, siamo tutti volontari, quindi tutti studiamo, lavoriamo, quindi usciamo in strada più o meno indicativamente dalle 9-10 di sera, e nel complesso incontriamo settimanalmente 100-120 ragazze. In realtà le ragazze sono molte di più, perché ci sono ragazze costrette a prostituirsi in strada anche di mattina e di pomeriggio, quindi una stima mi viene da dire che più o meno le ragazze che si prostituiscono all'aperto in strada a Bologna siano 250-300 circa. Dati certi e recenti non ci sono. Poi c'è anche tutto il discorso della prostituzione in casa, al chiuso, che però è un grande punto interrogativo. Per quanto riguarda la nazionalità, principalmente le ragazze provengono o dall'Africa, dalla Nigeria, mentre per quanto le riguarda le ragazze bianche, provengono tutte dall'est Europa, e negli ultimi anni, quindi da quando Romania e Bulgaria poi sono entrate nell'Unione Europea, sono rumene, bulgare, poi ci sono anche russe e moldave, però la maggioranza sono rumene ultimamente. Poco fa facevi riferimento alle ragazze che decidono di uscire da questo giro. Qual è l'iter che bisogna affrontare? Che ruolo ha l'albero di Cirene in questo percorso che le ragazze decidono di svolgere? La legge italiana prevede, ha previsto una normativa nel 1998 con la legge Turco-Napolitano, ha creato praticamente dei percorsi di reinserimento sociale per le vittime di tratta e sfruttamento. Quindi cosa prevede questo? Che le ragazze possano iniziare questi percorsi sociali, quindi di uscita dalla strada e di crearsi una vita più normale possibile, o denunciando direttamente i loro sfruttatori, quindi con questo percorso giudiziale, oppure sfruttando delle associazioni che costituiscono come garanti per le ragazze e che quindi consentano loro di iniziare questi percorsi che hanno un aiuto psicologico, aiutano nella ricerca del lavoro per il reinserimento sociale, appunto. Noi come Albero di Cirene non possiamo fare questo tipo di percorso, perché bisogna essere iscritti in un apposito registro nazionale e noi non abbiamo al momento i requisiti per farlo. Quindi la nostra attività principalmente appunto è di incontro delle ragazze, comunità di strada, e aiutarle e indirizzarle a chi può aiutarle in questo tipo di percorso, che a Bologna sono l'associazione Papa Giovanni XXIII e Casa delle Donne per non subire violenza. Quindi noi siamo comunque collegati in una rete con queste altre due associazioni, e nel caso ci siano delle ragazze che incontriamo in strada e che ci chiedono questo tipo di aiuto, le indirizziamo e accompagniamo in questo tipo di percorso, che è abbastanza lungo e periglioso. Quali organizzazioni criminali sono coinvolte in questi traffici? Chi ci sta dietro queste ragazze? Sicuramente, essendo poi sfruttate, c'è un giro malavitoso dietro, che però è enorme di ramazzoni e non è facile da individuare. Allora, sicuramente per quanto riguarda le ragazze africane c'è la mafia nigeriana, quella che è conosciuta come la mafia nigeriana, che fa da tramite con chi chiama le ragazze in Europa e in Italia per inserirle in strada, per metterle in strada. Per quanto riguarda le ragazze dell'est, anche lì c'è questa mafia rumena, mafia albanese e la mafia albanese, che comunque sono strettamente collegate con la malavita italiana, che in Emilia-Romagna in particolare sono la Camorra e l'Andrangheta, e che praticamente trovano il marciapiede, che per le ragazze si chiama joint, cui le ragazze possono stare e che devono pagare alla malavita per poter star lì, potersi, doversi prostituire e poi appunto venire sfruttate, ecco. Ok, noi ringraziamo Riccardo per questa testimonianza e vi rimandiamo la linea e vi lasciamo con una canzone. Riccardo, c'è una canzone che ci vuoi lasciare? Ma direi che ci sta anche col tema Immigrant Song dei Led Zeppelin. Grazie a voi e buona serata. Buon lavoro. Abbiamo quindi sentito qual è la situazione qua a Bologna, ma vediamo un po' com'è la storia a livello italiano. Si stima che ci siano circa tra i 50 e i 70 mila lavoratori del sesso, termine che la Vale ci dirà in inglese perché è bravissima. Sex worker! Sì, avete sentito, meraviglioso. Imbarazzante. E quindi di questi però ovviamente non sono tutti sfruttati. Si stima che vittima della tratta, quindi della prostituzione forzata, siano tra le 19.000 e le 28.000 persone. Di queste parliamo soprattutto di donne, di fatto, e sono donne che provengono da, come abbiamo già sentito nell'intervista, da paesi stranieri, soprattutto in gran parte dalla Nigeria e dalla Romania. E in particolar modo per quanto riguarda le donne dell'est abbiamo un fortissimo sfruttamento da parte della mafia albanese, che ha particolari legami con l'andrangheta, tanto da essere stata definita la quinta mafia italiana. Tanto per renderci conto che comunque, per quanto siano mafie straniere, sono sempre collegate con quelle nostrane, vediamo che ai dati del 2007 i guadagni dell'andrangheta per quanto riguarda la prostituzione erano ben 2.867 milioni di euro. Quindi, ah, però! Insomma, non si parla di numerini. Le mafie di cui abbiamo parlato si occupano principalmente della prostituzione su strada, che è anche quella più visibile, e le ragazze che si trovano appunto in queste condizioni sono più facili da aiutare. Ci sono anche mafie come quella cinese, che si occupano principalmente della prostituzione indoor, quindi dentro gli appartamenti, e rendono il fenomeno molto più difficilmente conoscibile. Quindi le ragazze che si trovano in queste condizioni sono difficili da aiutare proprio perché non si può parlare con loro. Ricordiamo comunque che la prostituzione in Italia è ancora di fatto regolata in modo principale dalla legge Merlin, legge del 58, che di fatto aveva abolito le case chiuse e aveva spinto la prostituzione verso la strada. Un altro dato che dovremmo dare, perché si parla di prostitute ma parliamo anche di chi ci va, gli utilizzatori finali. Sì, vabbè, cattivo gusto a palate. E comunque i clienti in Italia si stima siano 9 milioni. Macca. Vabbè, siete porci voi uomini. Oh, ci saranno anche clienti donne. Sì, vabbè, cioè non così tanti, eh. E poi gli uomini magari lo fanno, ma sono meno sfruttati. Oh, comunque piano parlare male di questi, perché sì, è vero, sono gli utilizzatori finali, ma sono quelli anche che potrebbero aiutare di più le ragazze a uscire dalla strada, perché sono loro in molti casi che riescono a dare un vero sostegno umano alle ragazze, cioè aiutarle a uscire dalla tratta, essendo queste ragazze spesso chiuse in casa e quindi non in strada, sono soltanto loro che riescono a trovarle e quindi ad aiutarle in questa loro impresa. Ma dopo tutte queste belle parole, deliziamoci con un po' di musica. Abbiamo qui I Wanna Be Your Dog degli Stooges. Vai tecnico! Anche oggi siamo giunti alla conclusione e vorrei lasciarvi con delle conclusioni. So, è un po' ripetitivo, ma volevo semplicemente dire che la legge Merlin, a quanto pare, con dei riscontri del senno di poi, per sconfiggere un mal costume morale, ha creato numerosi danni all'interno di questo paese, e semplicemente bisognerebbe riflettere sulla possibilità di rendere la prostituzione anche un lavoro che permetta della sicurezza e della garanzia. Per esempio in altri paesi come la Germania questo è possibile. Detto ciò, volevo sponsorizzarvi ancora due cose. Prima di tutto la manifestazione del 21 marzo a Bologna alle ore 9 in Piazza Verdi, e successivamente il Cineforum, il nostro appuntamento settimanale il 20 marzo, mercoledì alle ore 20, con il giudice ragazzino in piazza Scaravilli 1/1 alla facoltà d'economia. Non mancate! Bene, vi salutiamo, ciao a tutti da Stefano, Valentina e Eleonora, ciao! Ciao! Ciao!